Restiamo animali, trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan. Buongiorno, buongiorno, siete nuovamente all'ascolto di Restiamo Animali, la trasmissione per vivere, pensare e agire cruelty free, un format radiofonico che vi porta le voci, i fatti e le opinioni dalla galassia animalista, antispecista e vegan. La redazione di Restiamo Animali è composta da Camilla Lattanzi, Giuseppe Coco, Roberta Marino, Gabriele Palloni, Zenone Sovilla, Francesca De Matteis e Lorenzo Guadagnucci. Cominciamo con una bella notizia che viene da Sud e più precisamente da Eboli, dove si è fermato non solo Cristo. Ultimamente, infatti, anche una tartaruga caretta caretta ha sostato nella spiaggia di Eboli per deporre, pensate, 75 uova, un nido da record. La schiusa delle uova è prevista tra 45 e 50 giorni. Dopo la scoperta, la Capitaneria di Porto ha subito contattato i ricercatori del Centro Recupero Tartarughe Marine Anton Dorn, che hanno installato dei sensori per controllare le condizioni ambientali del nido e che hanno adagiato una rete di protezione sotto la sabbia per scongiurare impatti dannosi. Saliamo nello stivale, da Eboli ci spostiamo a Roma, dove il concetto di decoro ancora una volta sembra essere avverso ai bisogni dei viventi. A Firenze, avrete sentito, in nome del decoro tempo fa hanno allagato con gli idranti i gradini delle chiese per non far sedere i turisti stremati dal caldo e dalla fatica. A Roma, invece, una ordinanza della sindaca Virginia Raggi, sempre nel segno del decoro, vieta ai cani, pensate, di bere alle fontane storiche. Con le temperature torride di questo periodo, il divieto ai cani di bere alle fontane sembra francamente un'inutile cattiveria. Quante volte abbiamo visto i tifosi distruggere piazze e monumenti di pregio e nessuno si è mai sognato di vietare le partite di calcio. Quale danno potranno mai arrecare i cani bevendo alle fontane? Francamente non si capisce, anche perché quando si vede un cane non solo bere, ma direi anche gettarsi a corpo morto nell'acqua di una fontana, non si può che sorridere. È un bellissimo spettacolo, uno spettacolo pieno di gioia, che dà anche un senso alla fontana storica, che l'attualizza, la rende utile al benessere collettivo. e non un rudere da chiudere in una teca di vetro. Insomma, non si può veramente pensare che sia indecoroso far bere i cani alle fontane. E chissà se ai piccioni e agli altri pennuti selvatici verrà ancora consentito di bere alle fontane, speriamo di sì. Per i trasgressori umani, ovviamente, è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria da 40 a 240 euro e il provvedimento sarà valido fino al 31 ottobre 2017, quando le temperature scenderanno e bere alle fontane non sarà più così interessante. Sono Mio è una casa famiglia per minori. Si tratta del progetto di una coppia, Simonetta e Gerardo, che hanno voluto fondare una comunità educativa residenziale a dimensione familiare per l'accoglienza dei minori. Solitamente arrivano in una casa famiglia casi di bambini in stato di temporaneo abbandono oppure di disagio familiare o personale. Vi chiederete che cosa c'entra questo con gli animali? C'entra moltissimo e Simonetta ci spiega perché. Come si chiama lui? Alfio, è un maiale vietnamita. Alfio vive in casa la notte e dorme sul divano. Tutti i nostri ragazzi bisticciano ora perché non ce lo vogliono, perché è diventato un po' inorobusto, vedi come è grossettino. Sul divano, siccome prende più posto lui perché è un po' prepotente, allora brontolano perché dicono che non è possibile che un maiale debba dormire sul divano. I nostri figlioli dicono, ah, qui non è possibile, cani e porci. Tra l'altro gli devono aver fatto dei dispetti i figlioli della serie, gli fanno finta di dare il pane e poi non glielo danno. Lui ora, con qualcuno di loro, si mette davanti e non li fa entrare in casa. Addirittura una delle mie, lei, la blocca e la rincorre fino a metà ghiaia. È intelligente. Non è, vedi, lui è abbastanza tranquillo. Alfio si è buttato giù e ora gli stiamo accarezzando la pancia. Perché noi avevamo già una maialina vietnamita, che era la Circe, una maialina rosa. E siccome sono intelligentissimi e hanno una relazione importante, almeno per la nostra storia, no? Essendo una casa famiglia, la relazione con i ragazzi è importantissima. E ognuno di loro, poi i ragazzi che abbiamo in affidamento, si occupano degli animali. Lui per esempio se ne occupa un bambino dei nostri che fin da quando è arrivato si è voluto occupare di lui. Quindi gli dà da mangiare, si relaziona con lui e è importante perché all'inizio quando arrivano come li aggancio questi bambini? E quindi ci pensa l'animale, sinceramente ci pensa lui, oltre agli altri bambini ovviamente, perché noi adulti veniamo in seconda battuta. All'inizio è un pochino più difficile perché provengono da storie complicate, storie molto dolorose e quindi la scelta, almeno per noi, dei nostri animali è stata per questo. Finché sono piccini sono tutti contenti, Ale, la fattoria, gli animali sono felicissimi. Quando crescono diventano adolescenti e cominciano a brontolare. Però ormai l'animale c'è, l'impegno ci se l'è preso, lo si porta avanti. Che piaccia o non piaccia, non si può, perché ci si stanca, no? Se no si fa come tutti, visto che sono tutti animali regalati la maggior parte o salvati dal maltrattamento, eh? È una scelta di vita e quindi la scelta di vita la si porta avanti. Io ora ho 50 anni, mi marito ne ha 45. E quanti bambini avete adesso? Sono 10, 2 biologici, 1 adottato e 7 in affidamento giudiziario. Si va da 22 ai 9 anni. Si sentono trattati bene, vedi come sono. Sì. Sono rilassati. Anche lo stare con gli altri, se no non lo farebbero. Noi non si mangiano e non si mangerebbero mai. Non mangiate la carne? Il mio marito no. Noi, io e i figlioli sì, il mio marito non è vegetariano, ma i nostri non si mangiano. E quindi che cosa fai? Se mi fai maialini che poi li vendo sapendo e poi me li mangiano? Non esiste. No. E quindi non conviene fargli fare piccini. Repubblica Ceca diventerà visoni free. La Repubblica Ceca infatti si aggiunge alla crescente lista di nazioni che hanno detto basta alle fattorie che allevano animali per le pellicce. Qualche giorno fa il Parlamento ceco ha adottato una legge che bandirà queste aziende fra il 2019 e il 2021. La legge dovrà ora essere ratificata dal Senato, firmata dal Presidente della Repubblica. I due passaggi non sono ancora 100% garantiti, ma sembrano altamente probabili in quanto l'83% dei cittadini della Repubblica Ceca è favorevole a questo divieto che risparmierà la vita a circa 20.000 volpi e visoni ogni anno. Simili divieti vigono già in Croazia, Giappone, Macedonia, Paesi Bassi e Slovenia. ai quali si aggiungeranno presto Bosnia, Erzegovina, Lituania e Polonia. In Germania è passata una legge che garantisce standard di allevamento talmente elevati da rendere di fatto impossibili e antieconomici gli allevamenti, così come è già accaduto in anni passati in Austria, Svizzera e Regno Unito. In Italia, invece, da anni giace in Parlamento una legge analoga che non viene mai discussa. Staremo a vedere quale parte politica si farà carico di questa scelta che noi riteniamo di civiltà. Gli animali che subiscono sfruttamento e prigionia, noi dedichiamo il prossimo servizio, che parla di un gruppo di animali che ha saputo conquistare la libertà e che sta continuando a difenderla. Come sa chi ci segue da tempo, noi cerchiamo sempre di evidenziare quei libri e quei film che si occupano di liberazione animale. Stavolta la nostra corrispondente da Roma, Francesca De Matteis, ci propone un'intervista agli autori del cortometraggio Vacche Ribelli, una bella storia italiana, una storia vera di libertà. Vacche Ribelli è un cortometraggio che racconta la storia di mucche che ritornano allo stato selvatico. Paolo Rossi, tu sei fotografo, documentarista e uno degli ideatori del documentario. Come nasce Vacche Ribelli? E attraverso questa storia parliamo appunto di questo ritorno allo stato selvatico di queste mucche liguri che sono state vittime di un maltrattamento e hanno però usato a loro vantaggio questo maltrattamento, questo abbandono in montagna per ritrovare i loro istinti naturali selvatici e tornare liberi. Un documentario di 14 minuti, se mi racconti le persone che fanno parte di questo progetto. Sono Alessandro Ghigi, videomaker e naturalista, laureato in scienze naturali, e Stefania Carbonara, che è una videomaker che è stata importante nel montaggio del film, e Luca Serlenga, che è un geografo che ci ha aiutato a localizzare questa mandria di vacche ribelli, diciamo così. Ma voi le avete mai viste queste vacche o le avete viste soltanto tramite video, fototrappole? C'è stato qualche incontro? Dacci una chicca. Esclusivamente con videotrappole sono state viste e sono immagini che ci sono nel film, solo di videotrappole. Abbiamo scelto di usare solo immagini di mucca ribelle in libertà. E non le abbiamo viste perché sono veramente selvatiche, non le abbiamo viste perché non abbiamo voluto disturbarle in una situazione molto delicata, sono perseguitate da polizia, bracconiere e dai lupi che vivono lì, e quindi la videotrappola è stato anche un ottimo mezzo a livello etico, diciamo, per filmarle ma non disturbarle. E voi usate questo termine ribelli, da qui il nome del documentario, perché? È stato abbastanza istintivo e ci fu un'associazione, Resistenza Animale, che le chiamò così, o se non sbaglio Mucche Ribelli. Noi l'abbiamo modificato in Vacche Ribelli, quindi ispirandoci anche un po' a loro abbiamo trovato questo titolo e ci sembra abbastanza accattivante. E la cittadinanza si è appassionata? Come vi siete relazionati con loro nelle interviste e che feedback avete? In parte ignora la situazione delle mucche, soprattutto chi non ha subito danni agli orti. Poi ci sono le persone che hanno subito danni agli orti che invece non hanno in simpatia le mucche. E poi ci sono persone che invece considerano queste mucche simpatiche, belle da vedere, e in certi casi hanno aiutato anche le mucche a restare libere. Ci sono state raccontate delle chicche come poliziotti della provinciale che cacciavano queste mucche legalmente e che sono stati in qualche modo mandati in direzioni sbagliate da cittadini per evitare che le abbattessero. Prima, microfoni spenti, dicevi, questo non è un documentario animalista. Voi non siete animalisti, siete videomaker. A livello personale, che cosa vi è rimasto? A livello personale ho tuttora in qualche modo l'emozione, la pelle d'oca nell'aver avuto a che fare con animali straordinari, nel senso che queste vacche sono realmente tornate selvatiche, si comportano realmente come i bovini selvatici, molto simili ai bufali africani, molto simili al bisonte europeo. E si sono conquistate da sole questa libertà, e anche solo camminare nel loro territorio, trovare una loro impronta, è qualcosa di emotivamente molto forte. Francesca De Matteis, Palazzo Santa Chiara, Roma. A proposito di immagini, ha destato scalpore un video girato da alcuni visitatori in uno zoo cinese a Changzhou, che riprende il lancio di un asino vivo nel recinto di due tigri. Le tigri hanno rincorso l'asino, che ha tentato in tutti i modi di sfuggirgli, fino a quando non gli è più stato possibile ed è stato aggredito, morendo sbranato dopo una terribile agonia durata circa 30 minuti. Le persone che hanno gettato l'asino nel recinto delle tigri dicono di averlo fatto solo per protestare contro chi si occupa della gestione dello zoo. Hanno investito, così hanno detto, il loro denaro nella struttura 2 anni fa, ma da allora non hanno mai ricevuto dividendi. Per questo hanno dato l'asino in pasto alle tigri. In questo modo avrebbero almeno risparmiato qualcosa sull'alimentazione degli animali. Avevano anche intenzione di dare una pecora viva in pasto alle tigri dopo l'asino, ma le guardie di sicurezza dello zoo li hanno fermati prima che potessero farlo. È una notizia terribile, insopportabile, che però svela molte verità. Ad esempio, ci svela il fatto che gli zoo, così come gli acquari e i delfinari, sono in fondo un business come un altro. Dietro la facciata didattica c'è sempre un giro d'affari che deve convogliare quantità interessanti di denaro nelle tasche di qualcuno. Altrimenti non si sceglierebbe quel tipo di investimento e probabilmente tanti zoo, tanti delfinari, tanti acquari non ci sarebbero. Sugli animali, come è facile capire, risparmiare e quindi guadagnare non è difficile. Il pasto gentile, un frigorifero senza crudeltà. Ora di dire basta al consumo compulsivo di vasetti carichi di olio di palma truccati da crema di nocciole. Lanciamo un esercito di giovani ribelli che al grido di "non la farete mai come la facciamo noi" spalmino fette di pane con una crema autoprodotta, vegan e libera da ogni sofferenza. Gli ingredienti per un vasetto da circa 500 g di crema spalmabile alle nocciole sono 40 g di cioccolato fondente, 40 g di panna vegetale, 220 g di latte di nocciole, 200 g di zucchero di canna, 20 g di farina, 20 g di amido di mais e 40 g di cacao amaro in polvere. Cerice teme, cerice d'adoro, come la salsa de pomodoro. Cerice teme, cerice d'adoro, come la salsa de pomodoro. Ya Mustafa, ya Mustafa, anabahe. In un tegamino fate sciogliere lo zucchero di canna in 100 g di latte di nocciole e successivamente aggiungete 40 g di cioccolato fondente. A parte setacciate la farina, l'amido di mais ed il cacao, quindi amalgamate con 40 g di panna e i rimanenti 120 g di latte di nocciole. Unite questo impasto al cioccolato fondente e sciroppo di zucchero e fate addensare a fuoco basso. Una volta raggiunta la densità desiderata, togliete dal fuoco e fate raffreddare a temperatura ambiente. Versate in vasetti di vetro e conservate in frigo. Ricordiamo le persone e gli ospiti che hanno contribuito alla realizzazione di questa puntata e che sono stati Simonette Gerardo, Emilio Maggio, Lorenzo Guadagnucci, Roberta Marino, Francesca De Matteis, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Giuseppe Coco e Camilla Lattanzi. L'appuntamento con la trasmissione Restiamo Animali è tra una settimana esatta, meno 30 minuti, stesse onde, stessa ora. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Restiamo Animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.